Ma che parlando sta? Ma quanti? Ci sono Giovanni, ma com'è? Ma perché non Giovanni? Sì, io sono Claudio Spagnolo della città di Sassari. Sì. Sassari. Città di Sassari. Ok, sono in compagnia di Antonio Falchetto, sempre qua dalla città di Sassari. Non ti l'ho mai sentito perché sei mai dal QRM. Comunque, perché c'è molto QRM, altrimenti ti avrei ascoltato molto meglio. Avanti, Anto. Ehi, scusate. Saluto nell'amico. E io lo stesso. Non sento più in mezzo al QRM. Comunque saluto lo stesso da parte mia, se vai copiando dammi conferma, fammi da ponte Claudio se riesci a copiarmi. Sentito Franchetto Giovanni? Sì, ti senti Antonio, che bene, non c'è un problema. Ma siamo noi, ci abbiamo molto QRM, io sono un po' più aperto, più in alto, quindi riesco a ricevere, ma la voce va talmente basso. Che ti ascolta anche abbastanza bene, detto. Ah, parola, Pappa di Roggio. Va bene Giovanni. E allora. Esatto, io non ti ascolto, non ti posso fare delle domande, Giovanni, perché non riesco a ascoltarti, forse per causa QRM. E niente, dai, rilascio tutto a Claudietto, e lui magari un pochino meglio di me ti tira fuori, dai. Sempre in mezzo al QRM, è salito parecchio, c'è QRM a 5, io 5-6, di solito questo è sempre 3-2-3, invece questa piaggiolina che ha causato questo coso, e non l'ho attaccato lo strumento, secondo Giovanni, l'ho attaccato lo strumento. Scappa, ho messo oro 8 e stazionare niente, però 1-1 professore, 1-1-1. Infatti della radio? A 8 l'ho messa, a 8. Ok, a 8, va bene. E si muove a parallelo dell'altro strumentino? Sì, quando modulo leggermente, piano si muove, ma poca roba, Poca roba perché non hai. Dunque almeno adesso c'è tutto sotto controllo. Però smetterò un attimo. Un mobile come il microfono, anche se di quelli così andati, almeno giusto per farlo andare, no? Poi appena pronto la M500 lì bisogna lavorarci un po' di più. Ma poi vedete voi che è interrotto. Ma comunque, vediamo di mettere a posto anche quello, non c'è problema più. Sì. Mette a posto tutto, piano piano si mettono a posto le cose. Cappa, dai, rilanciamo Giovanni se non vado errato, anche se io non lo copio, ma rilancialo tu, Gio. Dai, pulire, mi ha tornato il naso su ragione, bubu. Io già ti sento e tu ce lo rilanci, se siamo noi che lo sentiamo basso. Giovanni, non senti il bipi quando molla, bipi. Quando molla il bipi, sento il bipi solo e basta, però c'è molto, molto QRM. Certo, non ricordiamo la moto, andiamo con me, con una giornata del genere, c'è un po' di preparazione oggi, provate a fare un giretto nei canali alti, c'è da farsi il pazzo, c'è da farsi il pazzo, mi sa che con un colpo a far andare un po' l'amplificatore. Ma non aiuta la mia voce, no, non fa male la roba. Beh sì, diciamo in quelle coordinate dove eravamo un po' di pioggerina la volata, qua proprio si vede e non vuole passare, dai, va bene così, dai, aspettiamo per come viene il tempo, già va bene, dai. Lo senti, sì. E ti ascolta benissimo tu, e siamo noi che non sentiamo messo perché c'è un po' di cuore, capito? Però già ti sente lui. Positivo, positivo, meglio così, no? Va bene, Meda, va molto bene, cappa, cappa. Dico un microfono normale, un microfono si attacca l'altro, allora ti tiene ancora meglio. Vabbè, attaccando l'altro dovrebbe ascoltarmi ancora meglio. Vabbè, non è una modulazione, è 5 perfetta, normale, va benissimo. Cappa, cappa, dai. C'ho la colonnina, c'ho l'altra parte accesa, ma tutto rosso, caspita, di russo. Vabbè, già va bene, chi è che può entrare? Chi è che può entrare? Ho sentito qualcuno sotto l'intento. Cappa, cappa. Le porte sono di Dio, tutte aperte, chi vuole entrare entri. Non tutti non sono di Dio. Bisogna avere... Logicamente è sotto di te, quindi c'è qualcuno in zona, tutti gli altri arrivano 10 dB, 20 dB meno di te, quindi non c'è problema. È positivo, positivo. Cappa Roger, ma se voglio entrare non ci stanno problemi. Cappa di Roger, così è Claudia, così è. Adesso ci lavoriamo su quello M500 e vediamo di portarlo alla normalità, se non ci abbiamo le connessioni, mi devo dare più 3, se usi il dare più 3, col Mobicom, cappa di Rosmetro, vediamo Giovanni, Giovanni! Yeah. Beh, in effetti ho solo quel pezzettino delle marine, che è un po' difficile da arrivare, ma già si potrebbe migliorare un po' di più, dai. A parte sì, è quella che dà un po' di problemi a tutti, è un po' di problemi a tutti, quella zona da 60 Teresa di Gallura. Io ce l'ho un po' più, ma non mi copre la zona di Monte Bianchino per Santa Teresa, però riesco a arrivarci lo stesso, non ci sono problemi, non proprio, però me ne vuoi, io arrivo benissimo, anche in diretta ci arrivo tranquillamente. Qua non ho mai avuto l'occasione, quando parlavo con Francesco Briscolano era qua a Revino Vedetti, a Baresi, non c'è problema. Quello è quello, capito? Non è uno che ci sono a Sassari e parlo, sono forte, no? Forte vuol dire farsi ascoltare tutta la Sardegna, no? Non fare da voi di casa. Come vicino di casa siamo voi tutti a essere forti. Infatti, con vicino di casa è ovvio che sono tutti forti, ma sono vicino però, la grappa. Da non bere molto perché chi c'è un bel. Parecchi, parecchi. Poi le zone sono zone, chiaramente si uno è alto, perché gioca a 40 metri di altezza, ma è chiaro che non ho ostacoli, è normale, no? Ma anche la zona di giù ci sono dei varchi molto molto aperti, molto buoni, non c'è problema. Ok, a sto concetto ci lasci i parametri anche con loro a pappata e quindi non lo sentiamo stasera, si torna ci cosa ho detto, gli c'è la festa, vediamo che c'è la Giovanni, vai Giovanni, ma com'è il cambio a Sassari? Sì, non c'è problema, figurati, noi siamo sempre qua, forse non sentivi mai nessuno perché è difficile che Sassari possa parlare con Macomber così in diretta. Noi siamo, io e Antonio siamo nella zona alta praticamente di Scala di Ciocca, quindi l'apertura per le gallerie del Mascari e per quello che ci ascolti, diversamente è un po' difficilino arrivarci così in giornate come oggi. In che anno? 4-5 anni fa potessi che io sì. Io sono mancato 3 anni e mezzo, quasi 4 anni da questa zona, abitavo giù nella bassa valle del monte, Monte Basso, lì a Pascoli, può darsi pure sì che mi sentivi, perché spalvieri a Sassari non ce ne sono altri, sono solo io, spalvieri all'originale, quindi sicuramente sì, io non mi ricordo aver parlato con te. Non mi ricordo, comunque, se ti ricordi tu, sicuramente è così, Giovanni. Ok, ok. Va bene, d'accordo, comunque noi siamo qua. Se ce la fai, dove un'altra retta, fino a 10:30 almeno ci tratteniamo, Buona cena con tutto, Giovanni. Ti passo l'Antonio per i saluti, quando vuoi siamo qua. In giornata magari migliore di... Il K, l'ho sentito un passaggino a Giovanni, dai, buono tutto, buono rientro a casa, quando voglia siamo qua, non ci stanno problemi. Saluto a te, QRA familiare e tutte le migliori, alle prossime. Ciao Giovanni. Ambasciatore d'inglese. Ciao Giovanni, alle prossime. Siamo qua, ti ripeto, quando vuoi, entra pure. Ti ascoltiamo perfettamente. Ciao, buona cena, saluti al collega familiare. Ciao, ciao. Ok, d'accordo, ciao. Avanti a tu. Ma si sente sottofondo qualcuno che parla, sono inglesi? Inglesi, tedeschi. Ma ho sentito qualcuno che chiamava anche Falchetto, non so, chi è che chiama Falchetto? Sì, siamo nei frati da Falchetto. Ma che, non c'è niente, Falco, Falco, Falco, sei tu. pazzo. Sbucato, non ci ha bucato il nome. Ne va sì. Ui. Di tutti i colori per intendere, non venuta da fare. Preparazione ci inizia a salire, strana. Senti un po' tutto il mondo intero. Capito? Tutto lì. Già va bene. Oh, va bene. Fa sempre piacere anche ascoltare quando c'è preparazione. Oh, come quella che abbiamo noi, per carità di Dio. No, troppo baldamo, troppa cosa. Uno parla di nata all'ascio, non essere cosa di venuta. Vabbè, ma la preparazione si fa un significato, schifo, diventa un po' lungo, perché la temperatura è talmente calda, quindi allunga un po' il... lo schifo della preparazione. L'inverno invece, essendoci le temperature fredde e i venti, è troppo confusa, capito? Troppo terremotata diventa la preparazione. Non è bella chiara come quella dell'inverno, che arrivano belli puliti. Qua c'è in mezzo un po' di tutto, infatti non ci comprende mai il waburo migliore, a meno che non c'è direttive, antenne latte per la banda in cui stai lavorando, e quindi riesci a decifrare meglio. Ma quando sei così in verticale, pure la reazione che hanno in verticale, è difficile ascoltare bene. Infatti è così, no, io infatti sì, li ho fatti qualche QSO, ma quando riuscivo a capirlo, quando no, lui lasciamo perdere così. È un macello, capito? Ma c'è quello che va a salutarti, c'è quello che arriva più forte, senti più a quello, devi ascoltare l'altro, insomma è un macello, dai. È un po' tutta misciamoletto, è un po' tutta mischiata, perché è così. L'estate è molto più pulita. Più bella la preparazione. L'inverno, con le correnti atmosferiche che ci sono, porta tutta uno sopra l'altro, accavalla tutti i segnali, le cose, quindi non è che mi appento assai. Io lavoro molto bene in 10 metri, ne ho 28. 10 metri, ma la laterale sì, riesco a lavorare molto meglio, ma in AM è una confusione totale. Va bene, tanto pulita la lavorazione, bella chiara, non è il massimo comunque, almeno fai andare un po' quella radio. Sì, no, era giusto per farla un po' andare, perché tanto tempo ferma, non si riusciva a trovare nulla a capo, era una cosa allucinante. No? Sì, ma non è che la te la portano che ti metto quello nero e il nastro. Ti metto quello nero, così è finito anche quella, la tattura se va bene, quella ce l'hai, e poi si può usare la stessa adattatore usando l'M500 appena pronto. Adesso ci lavoriamo sopra e vediamo cosa va sul microfono, se riusciamo a farlo funzionare. Tu da controllare, non è vero? Ti auguriamo bene, dai, poi vediamo un po' se funziona, pazienza, cosa vi fa, non ci si può fare niente. Se non funziona gli scendiamo in un altro, c'è un problema, adesso usa quello giusto per far andare, poi ne mettiamo quello da capo, adesso già c'è lo smetto un altimetro, un microfono normale ce l'ha per il mobico, almeno funziona, l'altro lo stiamo controllando. Vediamo se c'è qualche telefono da qualche parte, ma è strano comunque che col test non mi dia, visto non dava continuità nell'ingresso degli sviluppi. Ma quindi tutto da controllare con la lente, bene se c'è qualche interruzione proprio sul circuito. Infatti, bisogna vederlo, va bene, piano piano già si può guardare. piano piano, se poi c'è qualcosa che non va, pazienza, cosa mi va, non è che già piano piano si prenderà un altro microfono. Sarai sicuro che non lo diventa. L'importante è capire se da buttare il microfono cosa non so, si può riparare. Se si può riparare, si ripara. Vai tranquillo che no, non c'è problema. Se ho buttato lui si fa gira prima posso l'altro. E io infatti. Piano piano si mette a posto tutto. Piano piano si accosta il cammino, primo noi. E lui si è, Claudio. Beh, io penso proprio di sì. Ma se non si rompiamo tutta la base e si mette a stare più tre, ti ho detto. Si cambia la connessione, tanto c'è un filo a cambiare. Si cambia la connessione, si mette la batteria, quello che abbiamo messo quello lì. E si usa il pane più 3, 9 più 4, 9 più 5, ehi, assuffateci. Oh, assolutamente. Allora, fatti bene. Sai, su problema, se non ti rompiamo la parte, quello non vuoi, picco. E ti seguo il 340, ora mi ci 60, se ne esci. Un ghiaccio non risale proprio del zitto, Non credo più, cazzo, sono male, io ora continuo a fumare, anche se entro mia moglie, io qua a terra. Buscia. Ha preso colpa d'aria, l'altra mattina, io c'era con l'umidità, la mano che è corta, cazzo, madonna santa. Non lo sopporto ancora, giubbottino, l'ho portato stamattina, c'ho la macchina, ma non lo sopporto. No, come vai? Forse perché mi muovo, sto saliscini, ed è per quello che mi ha fregato. È per quello che mi ha fregato, saliscini, e pariscio. Ahia, guarda che tu sto smettere di questo pubblico, non sei bene in pazzia. Sicuri da Renarito, sicuri a poco scaldo a Renarito. Seguisci qui. Aspetti, abbasso ancora. Tanto siamo in questo locale, 20 watt, 10 watt, e questo è maledetto, cazzo, anche se metti a 10 watt c'è anticomodazione a 40, 30, è per quello, Sì, ma anche tu con 10 watt sei 9,50, non è che stai scherzando? Immagino che avevo messo a modificare. Che si inserisce qua alla 60 lì a vedere cosa fate. Certo che dovrebbe sparare forte, Certo che sì. Adesso mi interessa farlo andare a vedere come funziona. Non c'è problema. Poi te lo abbasso di 5. Te lo metto a 5 watt e si inserisce. E si inserisce la cimbrana, si cambia, quindi da 10 passi a 60-70, la cosa cambia. E infatti positivo 100, e lo credo bene, cambia musica e tutto, ma magari sono delle belle radioline questa qua, dai, è una bella radiolina. Questa è quella radiolina, questi canali che c'è allucinante, bubu. Allucinante, ragazzi. Ma hai sopporto da 25 a 28, fatta 29 megahertz sale. Allucinante c'è la radio. Ma è bella. Poi molto selettiva, per essere una radiolina del genere è molto selettivo il mobile, come ci picchi. Bella rospante in tutte le bande. Ehi, sabati. E poi c'è un casino di canali. Poi tranquillamente spostati benissimo, per dire nell'altro bisogna spostare solo coi numeri, invece questo proprio la frequenza, no? Per dire 27.0015 o 0,76, capito? È una cosa anche migliore, per dire, spostati su, per dire, un altro numero, tu giri e ti sposti un numero e vai. mettiamoci in banda, che dai la frequenza proprio giusta. Beh, non hai molto compatto come se io l'ho avuto, anzi c'ho il cavetto lungo io, ho un cavetto lungo, bisogna che te lo, proprio quello che avevo in macchina quando c'era un mobicom. Non so se 4-4 o 6-4. Usi quello che è spirato. Capito? Anziché essere così con l'adattatore, il cavettino rigido, come va tutto spirato. Ah, capito. Capparogero. C'è tutto la tua parte. Comunque, lo smetterò un attimo che funziona. Bellino quello, lo smetterò. Che cos'è della Migrant? Sì, della Migrant. Nice. Della Migrant. Va bene. Lo smetterò un attimo a tracciare. Faccio la voglia vedere, quello mi dura, se lo smettere, sì. E ci manca la cosa, non lo smetterò per le porche esce. Dove battere lì e poi lui andava, stava, si muoveva la lancia di tempo e boh, si trova strano, però ma Claudio mi ha detto che devo mettere per il watt e il watt non andava e per forza non andava, c'era del VHF e audio.